9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno, buon venerdì. Trasmissione di oggi dedicata agli automobilisti conculcati, i cui diritti sono violati invece che tutelati dallo Stato, che con le sue legittime, giuste, giustificate pretese di invadere sempre più pervasivamente i nostri diritti di libertà attraverso strumenti di controllo, di induzione a comportamenti etici e ovviamente volte soprattutto a limitare, a preservare il rischio di incidenti e di vittime, questo non c'è dubbio. Tende però ad accumulare una tale quantità di regolamentazione, spesso contraddittoria e comunque ininterrotta. Basta vedere, appunto, avete sentito l'apertura del giornale radio, con quanta frequenza cambino le norme del codice della strada, batterie di decine di articoli mutati ogni volta, per cui alla fine in questo ginepraio si scopre che poi alla fine lo Stato, invece di tutelarci, tende a raggirarci e a fregarci a volte. E metto proprio questo termine un po' brutale pensando agli articoli che avete visto molto campeggiare in molti giornali di ieri, articoli dedicati all'ennesima batteria di amministratori pubblici, funzionari delle polizie locali, colpiti da un'indagine nel Casertano per una maxi truffa che coinvolgeva tutti loro attraverso gli autovelox tarati appositamente per rilevare obbligatoriamente infrazioni. Ricordo, l'autovelox è quella apparato che rileva la velocità istantanea, il tutor, quello autostradale, quello che rileva la velocità media, e questi apparati erano tarati direttamente dalle aziende che li forniscono ai comuni in maniera tale da elevare contestazione di violazione, falsificando anche la firma digitale degli operatori di polizia municipale. Insomma, era una macchina collusiva che abbinava gli interessi delle aziende produttrici e quelle delle amministrazioni, che su questo oramai appostano direttamente i soldi in entrata nel proprio bilancio di parte corrente. Cioè, siamo arrivati a questo nel nostro paese. E l'esempio di Caserta di ieri viene dopo moltissime indagini analoghe aperte nell'ultimo anno e mezzo in Italia, a Segrate, Sala Consilina, Roma, Arezzo, l'elenco è lunghissimo. Cercheremo di fare il punto, oltre che sulla novità che avete ascoltato oggi nelle radio di oggi, e alcune di queste riguardano di nuovo anche la questione degli autovelox, per tentare di evitare questo tipo di abusi da parte dello Stato che ci vuole tutelare e invece ci frega. Ne parleremo con alcuni esperti. Io invito tutti voi, siccome oltretutto molti di voi oggi saranno in automobile, a chiamarci al numero 800 24 00 24. Gli sms potete inviarli al 349 238 6666, per le mail 9 in punto chiocciola radio24.it. Passo a salutare i nostri ospiti che ci aiuteranno a entrare un pochino meglio in questa delicata giungla di norme che, vi assicuro, per i non addetti ai lavori sono molto complicate, soprattutto perché variano nel tempo. Vi presento innanzitutto un collega, Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Buongiorno Caprino. Eccomi qui, buongiorno a tutti. Ecco, Caprino anima tra l'altro un blog che io vi invito a seguire con grande attenzione, perché lui è un preciso e da molto tempo osservatore dettagliato di come cambiano le norme, di questi contraddittori esiti di queste norme etiche. E come si chiama il blog di preciso, Maurizio? Mi sa che la linea di Maurizio Caprino è appena saltata, e passiamo allora a un prefetto, il dottor Luigi Varata, prefetto di Crotone. Buongiorno signor prefetto. Buongiorno a lei. Ecco, tra poco le chiederò di spiegarci che cosa lei come vertice dell'emanazione periferica dello Stato nella provincia di Crotone ha ritenuto opportuno fare per dare miglior perspicuità, miglior chiarezza, miglior tutela dei diritti esattamente su questo punto specifico dell'autovelox. E poi abbiamo Osvaldo Napoli, che è vicepresidente dell'ANCI, deputato della PDL. Buongiorno Napoli. Buongiorno a voi, ecco, buona giornata a tutti. Al quale chiederemo di aiutarci un pochino a entrare nelle nuove norme come sono modificate. Comincio dal prefetto, dal dottor Varata, anche perché poi non vogliamo rubargli troppo tempo. Ci spiega come e perché lei poco tempo fa ha ritenuto opportuno di dover rimettere a posto un po' tutte le norme e come venivano attuate nel territorio di sua pertinenza, esattamente su questo delicato punto dell'autovelox? Che situazione aveva trovato e come mai ho dovuto intervenire? Sì, è un monitoraggio che abbiamo fatto con il comando sezione Polizia Stradale, il monitoraggio che si fa periodicamente, l'ultimo era stato fatto 6 anni fa. Monitoraggio per fare in sostanza una verifica aggiornata di quei presupposti previsti dalla legge, dalla legge 168, che riguardano in sostanza il plano altimetrico delle strade, il tipo di traffico, il tasso di incidentalità. Quindi un monitoraggio per verificare questi dati, ed è emerso da questo monitoraggio che sulle strade, sui tratti di strada che erano stati individuati con precedenti decreti, questi dati sono stati evidenziati in maniera negativa, per cui si è deciso, dopo aver sentito sia il comando polizia stradale di Crotone che l'ente proprietario delle strade, l'ANAS, di rimodulare il tipo di intervento, prevedendo altri tratti di strada, sempre su queste due statali, la 106 e la 107, che attraversano la provincia di Crotone, dove invece il monitoraggio di quei parametri di cui li facevo cenno, hanno dato un risultato preoccupante per la stessa circolazione stradale, quindi per l'incolumità dell'utenza. Caprino è tornato con noi, buongiorno. Sì, ci sono. Io volevo invitarti innanzitutto a ricordare il blog che animi tutti i giorni esattamente su questi temi, che secondo me è molto utile. Se inizi ricordandoci il suo indirizzo, vogliamo ricapitolare un secondo quelli che almeno dovrebbero essere i capisaldi dei diritti dell'automobilista rispetto a questo apparato, l'autovelox? Cioè, siccome non tutti sono davvero al corrente delle garanzie di legge, ed è una classica materia da leggende metropolitane, vogliamo chiarire se e in che termini vale il diritto dell'automobilista a sapere preventivamente dove sono posti, per esempio la polizia stradale, sui tutori autostradali? Basta andare sul sito e sono ben evidenziati tutti i tutoraggi autostradali. Ma sugli autovelox, e quando si tratta dei comuni e di strade comunali e non comunali, perché questo è diverso, come dovrebbe funzionare in teoria l'autovelox? Allora, intanto il mio sito, il mio blog si trova, ci arrivate facilmente dalla home page del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com, andate nell'area che è denominata Agora, lì ci sono le fotine di tutti noi blogger del Sole. Per quanto riguarda i diritti su tutti i controlli di velocità, ogni controllo deve essere innanzitutto presegnalato, quindi ci vuole un cartello che si trovi ad almeno 400 metri, con almeno 400 metri di anticipo rispetto all'apparecchio. E seconda cosa, l'apparecchio deve essere visibile, quindi non si può nascondere. Questa è la teoria, ovviamente, perché poi ci sono cartelli, anzi la maggior parte dei cartelli non è seguita davvero da un apparecchio, quindi anche questo loro valore segnaletico, anche deterrente, viene a essere sminuito, e poi alcuni comuni stanno continuando a tenere gli apparecchi nascosti, tra l'altro molto spesso anche a rischio dell'incomunità dei vigili urbani che sono addetti a questi apparecchi, perché per nascondersi a volte bisogna mettersi in posizioni davvero pericolose, innanzitutto per gli stessi vigili urbani. Ecco, nelle nuove modifiche al codice stradale, che è più scritto e riscritto praticamente di qualunque altro testo vigente nel nostro paese, che entrano in vigore oggi, e un'altra batteria entrerà subito dopo l'estate, perché questi sono gli effetti delle norme introdotte con il decreto sicurezza, mentre poi c'è una norma generale di modifica del codice della strada che è in attesa dell'approvazione al secondo ramo del Parlamento e arriverà subito dopo l'estate. Si tocca anche a questo punto, quello dell'autovelox e dei diritti di segnalazione all'automobilista, perché si dice che nelle strade extraurbane l'autovelox non potrà essere posizionato oltre 1 chilometro dal segnale dei limiti di velocità. E qui siamo sempre in quel delicato terreno che da una parte tenta di rispettare il diritto dell'automobilista a sapere dov'è l'autovelox, dall'altra, se si interpreta molto estensivamente la cartellonistica, ovviamente l'avviso non vale e quindi l'amministrazione locale tenta, per così dire, di incrementare il gettito. Ora, da questo punto di vista, onorevole Napoli, che ci può dire? Perché la sensazione dei cittadini nei comuni, soprattutto più che nelle autostrade. Pronto? Mi sente? Sì, sì, la sento, prego. Ascolta, dottor Giannino, lei nella sua introduzione, anche in quello che ha detto adesso, dà l'impressione di far apparire le amministrazioni comunali come degli esattori affamati di soldi e così via. Io devo correggere... Momento, non Giannino perché inventa, eh. Io c'ho qui un tablò, un elenco di amministrazioni comunali. Giannino, aspetti, se mi fa parlare io... La faccio parlare. Rispondo su tutto. Ascolti, io credo che un'amministrazione comunale, se usa l'autovelox in maniera corretta rispetto a quello che dice la legge, mi pare che se un automobilista vada a 100 km all'ora dove deve andare a 50, l'amministrazione comunale vuol dire che si comporta correttamente. Se invece, come può essere, e dico può essere, successo in queste amministrazioni comunali, e bene lei ha fatto a dire attenzione, la ditta che aveva in appalto questo tipo di gestione che tarava, allora io vengo a dire questo è un male, attenzione. Primo, è un male perché i cittadini hanno preso delle multe ingiuste e televisione italiana. I cittadini hanno preso delle multe ingiuste e quindi questo è il primo. Secondo, penalizza anche l'immagine dei sindaci e anche dei comandanti dei vigili onesti che cercano di educare i cittadini stessi. Quindi attenzione, non è che le amministrazioni comunali mettono l'autovelox, ripeto, comportandosi correttamente fanno il loro dovere e prendono le multe che devono prendere. Certo che se rubano al cittadino, se vanno contro la legge, discorso vero. Poi le aggiungo, dottor Giannino, mi permetta, io vivo in un territorio di montagna, la Val di Susa, che tutti noi conosciamo, sì, per la storia del TAV. Mi permetta, quando io attraverso il mio paese della Val di Susa e trovo dei limiti di velocità a 30 km all'ora nel 2010, sono limiti di velocità che gridano vendetta a Dio, quando oggi una macchina a 70 all'ora si ferma in un metro. Quindi credo che sia anche questo tabù da togliere. Io 3 o 4 anni fa ho presentato un disegno di legge in cui invitavo le amministrazioni, cioè lo Stato, a portare da 50 a 70 km orari di minimo. Mi sono saltati tutti addosso come se io volessi ammazzare tutti gli automobilisti e i pedoni di questo mondo. Sono passati 30 anni, 40 anni da quando c'erano questi limiti di velocità. Quindi voglio dire, io ripeto e mi permetto di dire questo, correttamente le amministrazioni comunali non fanno cassa a condizione che si comportano secondo le norme di legge. Se, ripeto, se lei vede un cittadino che va a 100 km all'ora e c'è l'autovelox, se l'autovelox lo becca mentre invece doveva andare a 50, 60, 70, la colpa non è dell'amministrazione comunale. Se l'amministrazione comunale forse farà la giustizia. Onorevole Napoli, senza che si arrabbi, perché è nell'ambito di un civile confronto, oltretutto abbiamo anche un ritorno del suo ambiente da cui ci sta telefonando, in cui sembra che la situazione oscilli tra quella di un asilo nido o da quello di una casa per cantanti, ma lo dico perché dobbiamo anche un po' scusarci con chi poi ci ascolta. No, lei mi deve consentire questo. Lei dice non è colpa del comune, il comune se applica le norme quindi non fa altro che assicurare la prevenzione degli incidenti. Il problema è che queste norme spesso sono congegnate dal legislatore in maniera tale da consentire per esempio l'installazione degli autovelox in maniera tale che il provento della sanzione vada direttamente all'installatore e quindi si crei un circuito che si tenta di spezzare infatti con le nuove norme che entrano in vigore da oggi, ma fino a oggi era così, si crea un circuito che induce le amministrazioni comunali, talune, a volere fare cassa con questi metodi. Chiedo al prefetto, di Crotone, mi risulta che altri suoi colleghi in interventi analoghi a quello di generale totale verifica del rispetto di queste norme che ci ha spiegato il professor Varratta, il prefetto Varratta all'inizio della trasmissione, sono dovuti puntualmente intervenire, per esempio, proprio in merito alla precisa disposizione dei segnalatori luminosi in prossimità delle postazioni fisse di controllo. Da questo punto di vista, la situazione che lei aveva trovato era sufficientemente adeguata di rispetto preciso delle norme, o anche su questo aveva dovuto intervenire a Crotone? No, era adeguata. Sotto questo aspetto la situazione era adeguata, quindi io ho solo modificato, ripeto, i tratti, ma sotto l'aspetto della segnalazione era stato fatto un buon lavoro. Abbiamo alcuni ascoltatori. Maurizio da Modena, prego. Buongiorno a lei, tutti i radioascoltatori e i suoi ospiti. Ci dica. Allora, io sono un autotrasportatore e volevo segnalare appunto il fatto di queste autovelox che spesso e volentieri, se non quasi sempre, sono nascosti. Ormai per chi gira come me professionalmente, a tassisti e via discorrendo, siamo più impegnati a guardare dietro il bilone dell'immondizia, dietro il cespuglio, se c'è un autovelox piuttosto che guardare la strada. E stesso discorso vale anche per i semafori. Sappiamo che c'è un T-Red, procediamo piano piano, guardiamo il semaforo e non guardiamo la strada, perché sappiamo che come passiamo ci beccano subito. Allora, innanzitutto una regolamentazione, perché veramente girare adesso è diventato una cosa quasi biblica, si può dire, per chi gira tutto il giorno. Cioè lei dice, se io devo impegnarmi a vedere dove sta e mi distraggo dalla guida, è possibile che vengano più incidenti per questo piuttosto che perché io sono distratto alla guida un po', è questo il punto. Esatto, è questo. Faccio un piccolo esempio molto veloce per non togliere tempo alle altre persone. Guidizzolo, provincia di Mantova, abbiamo un semaforo con il T-Red, sopra questo semaforo c'è un contasecondi, quindi io avvicinandomi al semaforo io vedo per quanto tempo avrò il verde, per quanto tempo avrò il rosso. Allora basterebbe obbligare tutti i comuni ad installare anche un contasecondi con i semafori. A questo punto, se prendo la multa, nessuno può dirmi niente, c'è anche il contasecondi. Questo è un esempio classico, insomma, e in questo modo guardo la strada, non solo il semaforo. Grazie Maurizio, abbiamo poi Vito da Matera. Prego Vito, dica. Sì, buongiorno, grazie per avermi contattato. Senta, volevo sapere, è possibile che qui abbiamo da noi a Scanzano, sulla Ionica, lo chiamano robottino, ti vedo, qualcosa del genere, frega sempre chi si trova, perché c'è sempre fila, coda, e quando ci si trova in mezzo, dopo che scatta il giallo, si ha sempre multa. Ho fatto i ricorsi, il giudice ha dato anche torto, perché dice, appunto, cioè, questa è una cosa fissa, chi si trova da una parte e dall'altra sotto questo semaforo. No, un momento, non ho capito, lei ha fatto ricorso, è stato respinto? Sì. Perché appunto col giallo non si passa e via oltre il semaforo, ma lì quando c'è coda che si avanza metro per metro, si fa a non trovarsi sotto? Quindi anche in quel caso lei dice, è un po', viene un po' il sospetto che sia stato posizionato in maniera tale che c'è... No, ma sarà sicuramente a norma, però dove c'è una coda, quasi sempre su quella statale Ionica, almeno di questi tempi, ci si trova sotto quando scatta il giallo, perché si avanza metro per metro. Certo. Come si fa? Non incorre, in senso, cioè, ecco, questo è esempio. Ringrazio Vito perché ci dà esattamente una dimostrazione di come si possa rimanere nel pieno rispetto delle norme e contemporaneamente mietere grano facile sulle tasche degli automobilisti. Ora l'interruzione per la pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati a parlare di diritti degli automobilisti, con uno Stato che non fa altro che dichiarare di produrre nuove norme ogni giorno per tutelarci da noi stessi, e spesso però il rischio che tutta questa selva di norme annidi la possibilità di metterci meglio nelle tasche. Abbiamo visto prima Vito da Matera che ci diceva: ma se mi mettono un T-Red in una strada in cui di questi tempi si va a passo d'uomo, quando scatta il giallo e io non posso certo smaterializzare il mio autoveicolo, è ovvio che verrò sanzionato. Ha fatto opposizione, gli è stata respinta. Ecco, in questo caso devo dire, io sto dalla parte del cittadino che tende a non poterne più di uno Stato che poi mi tutela facendomi semplicemente pagare perché mi becca dove io non posso che essere in contrasto con una norma il cui apparato è posto apposta in un modo tale da rilevarmi la sanzione. Ecco, quindi sto dicendo che vado controcorrente in un paese in cui naturalmente l'atteggiamento maggioritario è quello del principio di cautela, di prevenzione, norme sempre più pesanti. Tra le novità che entrano in vigore oggi c'è una sanzione di 1000 euro se buttate la carta al finestrino dell'automobile. Ora naturalmente immagino che la maggioranza degli ascoltatori dica sì, così diventeremo più civili come la Svizzera. A me scappa da una parte una risata, dall'altra non mi piace questo tipo di intervento, perché più è pervasivo lo Stato, più diventa sanzionatorio con norme da grida manzoniano, più semplicemente distorce il nostro comportamento, perché è ovvio che il rispetto di massa non si ottiene con le grida manzoniane. Però questo, ripeto, è una mia opinione del tutto minoritaria, e però su questa opinione un po' minoritaria, che vorrei che contasse di più nel dibattito italiano, per 10 minuti abbiamo con noi Piero Ostellino, che io saluto e ringrazio per averci dato questo suo tempo, e gli chiedo a Piero Ostellino, editorialista del Corriere, ex direttore del Corriere, e un po' minoritario anche lui su questi temi dello Stato paternalista nei confronti degli automobilisti come del cittadino, gli chiedo: quando leggi sistematicamente di autovelox piazzati più per truffare che per tutelare, che idea generale ti suscita questo tipo di tema, di apparato, e la reazione che vedi intorno a te da anni, da decenni, del cittadino italiano, dell'automobilista italiano? Ti dà l'impressione di un paese che poi alla fine sopporta tutto in nome del fatto che è meglio sopportare, oppure insomma bisognerebbe anche un pochino organizzarsi meglio per la reazione? Beh, innanzitutto la sensazione è quella di vivere in uno stato canaglia, per ricordare il titolo del mio libro dove racconto appunto queste cose. La reazione degli italiani è sempre quella di sudditi rassegnati. Cioè, non tanto perché la legge la si debba rispettare, quanto perché quello che decide lo Stato va bene, o comunque sia non ci piace, ma lo accettiamo lo stesso, poi cercheremo di violare le leggi che lo Stato ci ha imposto e ciascuno di noi si regolerà come crede. Cioè, siamo un paese sotto un certo profilo con una forte vocazione anarchica. Perché non rispettiamo le leggi, perché buttiamo la carta per terra, le cicche e compagnia bella. Per il resto siamo invece un paese con una forte vocazione alla sudditanza di fronte ad uno Stato invasivo, pervasivo, prepotente, che arriva addirittura a truccare gli autovelox per portarsi via dei soldi. Perché in realtà gli autovelox servono solo più come tassazione nei confronti degli automobilisti. Ormai ci sono i comuni d'Italia che vivono più con le tasse che con il prelievo fiscale, quello legale, quello normale, diciamo. Cioè le multe sono diventate una forma di tassazione. Ora, uno Stato che si riduce a dare delle multe ai cittadini perché ha bisogno di quattrini e addirittura a truccare i semafori, gli autovelox, eccetera, beh, ammettiamo che è, oltre che canaglia, è anche uno Stato disordinato, uno Stato che non ha l'idea di quelle siano le sue funzioni. Quindi la sensazione che io ho e che vedo attorno a me è proprio questa, cioè da un lato l'irritazione per questa invasività dello Stato e dall'altra la rassegnazione, perché siamo tendenzialmente dei sudditi e poco dei cittadini. La mia speranza è che anche nella coscienza più riposta e più remissiva del suddito, talvolta in maniera civile, sto parlando di forme di protesta del tutto civile e non vorrei che ci fossero equivoci in materia, io sono dell'idea che la protesta dei cittadini, civile, misurata, ordinata, serve a risvegliare in tutti la necessità di norme meno invasive e più efficaci, perché le norme meno sono e più mettono a fuoco i pochi punti in cui devono intervenire, più sono efficaci, più diventano numerose, più diventano analitiche, dettagliate, più sono fatte per non essere rispettate, per consentire ai furbi, sia ai furbi pubblici che a quelli privati, di fare quello che vogliono. Allora, un'altra domanda per onorevole Napoli, sempre in punta di apparente polemica, per così dire, contro i tanti comuni che sono colpiti da indagini come quella nel Casertano. Io qui ho una dichiarazione del presidente dell'ACI, Enrico Gelpi, che dice, gliela leggo in sintesi. Ex deputato, cioè lei mettendo così le mani avanti dice suscita subito il dubbio del conflitto di interessi. Anche sindaco. È benissimo. A maggior ragione, se un presidente dell'ACI, anche sindaco, dice che l'indagine in corso sull'utilizzo distorto di autovelox in provincia di Caserta dimostra come il dilagare sia in corso di una patologia sconcertante. Strumenti come misuratori di velocità devono servire per prevenire gli incidenti e regolare la circolazione stradale, ma sono troppo spesso impiegati per fare soldi in modo improprio. Allora, l'ACI, il presidente dell'ACI, a sua volta, di fronte ai tanti comuni, ripeto, Segrate, Sala Consilina, Roma, Napoli, Cosenza, Arezzo, Milano, in cui sono indagini in corso di questo tipo, punta un dito accusatore. Allora, l'ANCI da questo punto di vista, non l'ACI, l'ANCI da questo punto di vista, che come ha dato una risposta per evitare la facile accusa, però comprovata in qualche misura da centinaia e centinaia di amministratori sotto indagine per questo di essere degli affamatori degli automobilisti? Beh, guardi, il sindaco che ritiene di dover comportarsi attraverso l'autovelox per fare cassa non è un buon sindaco, che sia di centrosinistra o che sia di centrodestra. Su questo non ci sono dubbi. Mi scusi se è una battuta, le chiedo scusa per primo della musica, ma ero in un hall di un albergo. Ma si figura. Oggi mi sono messo in camera e quindi le chiedo scusa di questo. Ma no, è che ogni tanto ci vuole anche un po' di battute per alleggerire. Perché... Ma non ci sono dubbi, lei fa molto bene, lei è molto capace sotto questo aspetto e quindi è estremamente positivo e l'apprezzo. Detto questo, ripeto, i sindaci che usano questo tipo di sistema, anche se, permetteteci, lo dico come ANCI, per quanto riguarda tutti questi autovelox, specialmente nella zona del Casertano, aspettiamo qual è il procedimento penale nei confronti, perché c'è un connubio di privato e di pubblico che si unisce, vediamo, e noi ci auguriamo che i sindaci siano al di fuori di questo sospetto. L'ANCI cosa fa? L'ANCI proprio per prevenire questa situazione che effettivamente è diventata penalizzante per il cittadino automobilistico, sta per far partire dei corsi di formazione sia rivolti agli amministratori locali sia rivolti ai comandanti per insegnare, se così si può dire in maniera molto semplice, di evitare i tranelli di essere ingannati dalle ditte private nell'utilizzo di questi autovelox. Ecco, quindi è già un fatto concreto questo che l'ANCI sta predisponendo. Le voglio dire, è ovvio che, ripeto, in una carenza di risorse finanziarie qualche sindaco può essere preso dall'orgasmo di voler fare cassa. Ecco, ripeto però, questo è un grave errore e lo ammettiamo anche noi. Quindi aggiungo anche un fatto, io ho fatto il sindaco per 20 anni, ascolti, l'autovelox non l'ho mai usato, il mio è un comune estremamente virtuoso, quindi le voglio dire, io sono molto molto critico nei sindaci che usano l'autovelox in maniera penalizzante, quindi è il buon senso dell'amministratore locale e aggiungo e finisco, la maggior parte degli amministratori locali sono di buon senso, perché se noi andiamo a fare un calcolo rispetto agli 8100 comuni nazionali, quanti sono i comuni che usano quel sistema, io credo che la percentuale sia bassissima. Benissimo, Napoli. Io vede, adesso molto civilmente, naturalmente non in polemica con lei, ma per andare avanti nella nostra riflessione poi con Ostellino, che tra pochi minuti ci lascia, e poi nell'ultima parte della trasmissione per tornare con Maurizio Caprino nel dettaglio, ho qui in mano una sentenza, una delle innumerevoli sentenze della Cassazione in materia di impugnative e ricorsi contro sanzioni d'autovelox. Questa è un particolare, una sentenza della Corte di Cassazione della seconda sezione civile, e questa sentenza, depositata 3 giugno 2009, che cosa fa? Respinge dei ricorsi presentati in materia di autovelox in contestazione del fatto che gli autovelox non erano disposti secondo le prescritte norme in materia di dovere di segnalazione su strade di diversa competenza urbane ed extraurbane dei comuni, e fa proprio il principio che era del giudice a quo, cioè quello del grado precedente, che aveva respinto questi ricorsi dicendo che in realtà, leggo testualmente, quale che sia l'apparecchiatura elettronica utilizzata per l'accertamento della violazione deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio. Ripeto, quando è possibile e secondo il suo insindacabile giudizio dell'amministrazione, perché questo servizio, una finalità istituzionale pur sempre volta a reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, finalità di interesse collettivo privilegiata dal legislatore rispetto alle personali esigenze del singolo utente. Allora, se abbiamo un ordinamento, Ostellino, in cui la Cassazione mi dice, in altre parole, che poiché la finalità prevalente è quella pubblica, collettiva, privilegiata dal legislatore, e dice la Cassazione che questa esigenza vale più di quella del mio diritto individuale, e mi dice per questo che l'amministrazione può metterlo dove vuole e come vuole in nome di questo principio prevalente, in che tipo di paese viviamo? Ti però chiedo proprio esplicitamente, perché sentenze come questa della Cassazione a un cittadino legalista come me pongono un problema. E a lei che problema pongono, Ostellino? Che viviamo in una società con una forte vocazione collettivistica e scarsamente individualistica, cioè non si rispetta l'individuo. Cioè, in altri termini, cominciamo con lo stabilire che la storia che gli autovelox e i limiti di velocità siano posti a tutela della salute del cittadino, questa è una balla, perché la limitazione di velocità fu messa nel 1973 negli Stati Uniti a causa della crisi energetica per far risparmiare benzina. Cioè, in altri termini, si limitò la velocità delle automobili per risparmiare carburante. Poi, siccome bisogna sempre dare una legittimazione di tipo morale o addirittura moralistico a quello che lo Stato fa nei confronti del cittadino, prevaricandone le libertà, allora si è trovata l'idea che no, guarda che lo facciamo per il tuo bene. E di solito lo Stato autoritario questo fa, cioè lo Stato papà, cioè quello Stato etico, quello che decide qual è il mio bene e qual è il mio male. Perché c'è anche un altro fatto. Cioè, se alle 2:30 del pomeriggio, in un'autostrada deserta, dove non c'è nessuno, io supero di qualche chilometro i limiti di velocità, io mi becco la multa perché? Perché lo Stato ha deciso che l'interesse collettivo prescinde dalla mia libertà individuale di guidare come credo in un'autostrada deserta dove non c'è nessuno alle 2:30 del pomeriggio d'estate. Quindi la ragione è un'altra, e cioè quella di far prevalere sempre un supposto interesse collettivo sulle libertà individuali, e questo è tipico dei paesi totalitari e autoritari, e noi viviamo in questo senso, cioè noi viviamo in un paese di questo genere, ma lo vediamo scritto nella Costituzione del 1948, dove esattamente c'è scritto che la libertà di iniziativa economica è condizionata all'utilità sociale, che la proprietà privata è a sua volta condizionata al bene collettivo e altre cose di questo genere. Cioè, astrazioni che limitano le libertà individuali. Noi siamo figli di una cultura collettivistica e non di una cultura che rispetta l'individuo. E quindi anche i sindaci che poi mettono l'autovelox taroccata sono a loro volta figli di questa situazione. Cioè, hanno bisogno di quattrini, perché non bastano mai con tutto quello che lo Stato deve fare o gli enti locali devono fare, e allora cosa fanno? Taroccano e gli autovelox. Cioè, siamo tutti vittime di una cultura collettiva, ma non c'è nessuno per ora, tranne 3 o 4 persone in Italia, uno di questi è il mio amico Oscar Giannino e l'altro sono io, che si ribellano a questa cultura collettivistica. Sarebbe ora che affermassimo un sano individualismo, che è la difesa delle nostre libertà individuali, non è certo anarchia, semplicemente, ma solo viviamo in un paese dove la parola individualismo viene associata alla parola anarchia, alla parola violazione della legge e altre cose di questo genere. Cioè, nemmeno dal punto di vista culturale abbiamo un'idea di che cosa voglia dire individualismo e libertà individuali. Vivendo in un paese di questo genere, dove a scuola si insegnano appunto queste cose, com'è possibile che i cittadini diventino dei cittadini e non rimangano dei sudditi? Senza problema. Grazie Ostellino, grazie anche per il tempo che ci ha dedicato, e ora appunto le informazioni sulla circolazione stradale. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua, siamo partiti da questa ennesima indagine contro oltre 200 persone tra sindaci, assessori, comandanti dei vigili urbani indagati a Caserta, nel Casertano, per autovelox taroccati. Ci siamo allargati alla batteria di norme in perpetua mutazione del codice della strada, e abbiamo fatto anche una riflessione poi sul fatto che viviamo in un ordinamento in cui, in nome dei pretesi legittimi, prevalenti obiettivi pubblici di tutela, il diritto dell'individuo poi ce lo scordiamo, e anzi la Cassazione ci dice che vale molto di meno, e quindi le amministrazioni possono fare degli autovelox quello che vogliono. In molte sentenze c'è scritto questo. Ci sono molte sentenze della Cassazione in cui si dice che l'operatore di polizia, comunque anche in violazione dei diritti, può fare quello che vuole, vi posso garantire, tanto è vero che per questo poi in materia di ricorsi la giurisprudenza è molto, diciamo così, aperta anche a esiti che non sono quelli di tutela dei diritti individuali. Ancora alcuni ascoltatori, e poi con Maurizio Caprino, che ho stupidamente trascurato, chiudiamo la trasmissione. Allora abbiamo Simone da Bologna, prego Simone. Buongiorno, buongiorno Giannino a tutti quanti. Allora niente, io avevo alcuni argomenti, e uno dei quali ad esempio è che per evitare secondo me questo comportamento truffaldino forse sarebbe opportuno reintrodurre la notifica immediata della multa, perché col fatto che uno si può nascondere e magari inviare anche, notificare la multa dopo 5 mesi dall'avvenuto fatto, questo qui sicuramente non aiuta un comportamento limpido da parte delle forze dell'ordine e delle pubbliche amministrazioni, ecco, non so cosa ne pensate di questa cosa. Grazie, il tema della notifica immediata. Poi abbiamo Roberto da Mestre, prego Roberto. Buongiorno dottore, io faccio il rappresentante, faccio circa 80.000 km all'anno, la mia riflessione è questa: in linea di principio l'automobilista non deve sapere dove sono posti gli autovelox, deve semplicemente rispettare i limiti della strada segnalati dai cartelli. Sapere dove sono gli autovelox provoca, le assicuro, in autostrada soprattutto, delle situazioni pericolose, perché uno viaggia a velocità regolare e ogni tanto si vedono queste frenate collettive e poi si ritorna alla velocità di prima. Ora, io lavoro in un'azienda, ogni tanto ci sono i controlli della Guardia di Finanza, sarebbe come se la Guardia di Finanza mandasse un avviso che dopo qualche giorno viene a fare un controllo. Non esiste ovviamente questa cosa. Certamente io non voglio difendere le amministrazioni locali che usano autovelox taroccati e che comunque utilizzano in maniera anomala lo strumento di controllo, ma il principio secondo me è che il cittadino rispetta le regole, non deve sapere dove sono i controllori nascosti per verificare. Questo era il mio pensiero, grazie, buona giornata. E vede, io non su questo ci sarebbe veramente un approfondimento che qui non abbiamo il tempo di fare, perché nell'ordinamento il principio che prescrive il dovere di informazione per l'automobilista è un principio che non serve, come se capisco bene la sua obiezione, a consentire all'automobilista di fare il furbo. Esattamente come di fronte a una sanzione per un inadempimento fiscale la contestazione deve essere ben proceduralizzata, ma su questo ripeto il tempo non ce l'ho, però mi colpisce che ci siano moltissimi automobilisti che la pensano esattamente come lei, perché la mia opinione, e lo dico con profondo rispetto, è che questo tipo di obiezioni introietti proprio quel tipo di stato d'animo di cui ci parlava Ostellino prima, cioè noi siamo così abituati all'idea che ci abbiamo bisogno di norme prescrittive, eticamente impegnative per tutte, eccetera, che addirittura anche informarci di ciò che l'apparato deve rispettare per poi potermi fare una contestazione da cui viene una sanzione amministrativa o in denaro, ad alcuni di noi o a molti di noi questo sembra come un errore, perché dice no, lo Stato non ci informi, lo Stato vigili dall'alto su tutti e colpisca tutti quelli che devono essere colpiti. Io non sono molto d'accordo, ma rispetto molto e so che il punto di vista dell'ultimo ascoltatore è un punto di vista largamente prevalente. Maurizio Caprino, tu proprio commenti, oltre che segnalare tempestivamente molte di queste sentenze, esattamente questo andamento un po' a zig zag della Corte di Cassazione in questa materia, però vorrei che, siccome tu sei un esperto della materia, io sono un po' considerato un estremista a volte, non è che me lo sto inventando che la Cassazione a volte dice che le amministrazioni e gli operatori di polizia stradale possono un po' fare quello che vogliono, è vero? Puoi confermarlo? Sì, assolutamente, ma questo secondo me è anche giusto, ovviamente a patto che si evitano le distorsioni, perché ovviamente, ecco, per esempio, sulla contestazione immediata che diceva anche l'ascoltatore prima e su cui verte anche la sentenza che citavi tu, col traffico che c'è, molto spesso è difficilissimo fermare subito i trasgressori, poi è chiaro che qualcuno ne abusa, però bisogna colpire chi abusa, non bisogna rinunciare a questo principio, nel modo più assoluto. aiuto. Così come io direi la Cassazione deve fare i conti con una realtà che cambia di volta in volta, non solo da paese a paese, degli 8.000 comuni italiani, ma anche perché via via cambiano le tecnologie, cambia tutto. Rispetto a 10 anni fa, la realtà stradale italiana è assolutamente diversa. Quindi le oscillazioni ci stanno tutte, a patto poi ovviamente di saperle controllare. Un'altra cosa che volevo dire, diceva il rappresentante dell'ANCI, l'onorevole Napoli, che la maggioranza dei comuni, degli amministratori locali governa con buon senso. Questa maggioranza noi la misureremo a settembre, quando ci sarà da fare, si spera, la definitiva approvazione dell'ultimo disegno di legge sulla sicurezza stradale. Perché attualmente questo disegno di legge contiene il fatto che si debbano togliere ai comuni i proventi delle sanzioni accertate dai loro vigili urbani e si debbano devolvere questi proventi agli enti proprietari della strada affinché rendano più sicure quelle strade stesse. Allora, siccome altre norme in passato sono state bocciate da emendamenti che certamente non ha fatto presentare il sindaco di Talolzio Corte o di qualche altro comunello, ma sicuramente sono cose su cui l'ANCI ha agito, voglio proprio vedere in questa prossima sessione parlamentare che cosa farà l'ANCI, se riuscirà a buttare a mare anche questa modifica al codice. Bruno da Milano, che ci dice Bruno? Niente, volevo parlare, saluti a Oscar Giannini. No, ma i saluti no, ma dico nel punto specifico di cui ci occupiamo, sì, oggi. Nel punto specifico, io vedo, giro tutto il giorno, vedo che in molti posti dove potrebbero esserci delle belle rotondine e evitare i semafori, i T-red, eccetera, non le fanno. Ne fanno in compenso di mega strutture, mega rotonde in periferia che normalmente non servono quasi a niente. Vedo che ci sono dei limiti di velocità di 30 km all'ora in comuni con 3 case e normalmente c'è l'autovelox. Queste sono tutte cose assurde. Sulla tangenziale che va a Milano, da Milano a Opera, è una strada che è un'autostrada, no? E i vigili sono normalmente nascosti dietro gli alberi in mezzo a quell'autostrada, perché c'è un limite di 70 km all'ora e quella è una strada tutta dritta con una mezza curva. Va bene. Grazie Bruno perché ci stai richiamando esempi che insomma a chi gira sono abbastanza frequenti. Io un po' la penso anch'io come Bruno. Giovanni da Cremona. Salve a tutti. No, io come anche amministratore di un piccolo comune volevo portare questa esperienza nostra. Noi abbiamo messo un T-Red su una strada provinciale, su un semaforo, dove abitualmente alla mattina si mettono in seconda fila, cioè invece di poi girare a sinistra tirano dritto e poi succedevano gli incidenti. Da quando è stato tolto, cosa che era sparita questa, diciamo, brutta abitudine, è ricominciato. Chi ha il semaforo rosso per girare a sinistra ricomincia a farlo. Io dico questo: tutta questa tecnologia qua, se usata male, è sbagliata, ma se usata bene, ad esempio noi avevamo fatto la richiesta di avere delle postazioni fisse, non per dare la multa, ma perché se la postazione è fissa, visibile, anche da lontano, a me quello che interessa è che nell'entrata nel paese, dove arrivano a 100 all'ora, 120 all'ora alla volta, soprattutto verso sera, sappiano che lì c'è un punto fisso, costante, dove devi passare a 50 all'ora. Capisce? A me non interessa fare la multa, a me interessa che la gente passi a 50 all'ora da quel punto. Grazie Giovanni. Io in sintesi, e ringraziando Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, non vorrei che aveste equivocato tutti voi in ascolto, lo vedo da alcune reazioni. Io non sono pagato da ditte che sono contrarie agli autovelox, io dico semplicemente che ci sono troppe indagini in corso contro amministratori pubblici e comuni per non far pensare che in molti comuni l'autovelox con la stangata obbligata è diventato una norma, uno strumento ordinario di finanziamento. Quindi io sono contrario allo Stato troppo pervasivo e mi dispiace se questo fa pensare a molti che sono antietico, l'etica con poche norme chiare è un'etica che preferisco a quella di uno Stato che mi dà gli autovelox imposti per obbligarmi a pagare la sanzione, con una Corte di Cassazione che dice che poi lo Stato ha sempre ragione e io ho sempre torto. Sono fatto così. Questa è la versione di Oscar di oggi. Comunque l'appuntamento è a lunedì prossimo. Leggete comunque il blog di Maurizio Coprino, che ancora ringrazio, il collega del Sole 24 Ore su questo. Ringrazio la regia Giorgio Matè e in redazione Alessandro Marco Tulli. Appuntamento lunedì. La linea adesso al Giornale Radio. Radio 24. La passione si sente.